I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso con Emiliano Enrico. 2 years ago, Blagojevich promised this term would be a memorable one. And that is not an understatement. We have made a lot of progress for people. We have gotten a lot done. Restiamo sul pezzo, come si dice in gergo giornalistico, perché ormai la politica americana ruota attorno ad un centro di gravità che si chiama Rod Blagojevich. È il governatore democratico dell'Illinois sulla bocca di tutti. 2 anni fa, l'abbiamo sentito in questo servizio della CNN, era ribattezzato come una promessa del Partito Democratico. Invece pochi giorni fa è finito arrestato con l'accusa di aver cercato di vendere al miglior offerente il seggio del Senato, che presto lascerà vacante Obama per andare a Washington. Nel frattempo è uscito dal carcere pagando una cauzione di $4,500. Però direi che la cosa incredibile è che Blagojevich è andato al lavoro, sembra come se niente fosse, ma ormai insomma possiamo dire che la strada che gli hanno indicato Obama, i compagni di partito, direi un po' tutti i giornali da destra e da sinistra, è quella che porta dritto dritto alle dimissioni. Aggiungendo soltanto un'altra cosa, cioè che nel frattempo qualcuno si è già dimesso ed è il vice governatore dell'Illinois, Bob Greenlee. Chiamo subito in causa Stefano Pistolini, che ci parla ancora, beato lui, da New York. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. In realtà un'altra delle indiscrezioni ormai piuttosto divertenti, per non dire ironiche, attorno a questo personaggio che credo siamo autorizzati a chiamarlo Blago, perché lo chiamano Blago anche nei telegiornali, quindi lo possiamo chiamare Blago anche noi, che fa un po' personale, che fa un po' cattivo di 007, no? Ci semplifica allora, anche la pronuncia, mi sembra molto comodo come diminutivo. Dunque, Blago aveva aperte aspirazioni di corsa alla Casa Bianca 2016, quindi non so come dire, forse ci siamo salvati da... Direi definitivamente sepolte dopo questa storia. Beh sì, sepolte sotto una valanga di fango, ma insomma, ma poi gli americani probabilmente si sono salvati da disgrazie peggiori. Ieri c'era una magnifica prima pagina del quotidiano Daily News qua a New York, con un faccione di Blago, con lo strillo a tutta pagina, come si fa ai ragazzini, no? Lo vuoi comprare un seggio al Senato? Insomma, che è diventato il tormentone naturalmente delle ultime ore nei media americani. Un'altra cosa che va molto di moda, di cui già ormai si disquisisce ad esempio su Fox News o durante le trasmissioni notturne di CNN, è la pettinatura del nostro Rod Blagojevich, che è stata indicata come la seconda peggiore pettinatura del 2008, la prima naturalmente era quella di Sarah Palin, insomma. Ma si scherza con il fuoco qui, perché la questione in realtà è serissima, soprattutto per quello che lascia intravedere, ovvero la capacità di ribadire a tempi brevissimi, talmente brevi che mancano non ore ma minuti, la promessa di trasparenza pronunciata a più riprese da Barack Obama nel corso della campagna elettorale, che ora è certamente messa duramente alla prova. Dico tra pochi minuti, perché alle 17 ora italiana, ovvero alla fine di Jefferson, e alle 11 ora locale, Barack Obama si presenta in pubblico la prima volta dopo l'esplosione di questa bomba, diciamo così, e con ufficialmente per comunicare una serie di nomine e certamente per fronteggiare i reporter che sono pronti con un fuoco di fila di domande imbarazzanti per Obama su Blagojevich. Bisogna sentire come risponderà. Per ora hanno risposto tutti piuttosto male. Ha risposto male il suo fidatissimo stratega David Axelrod, dicendo prima sì, poi no sui rapporti ravvicinati negli ultimi giorni tra i due. Ha risposto malissimo Jesse Jackson Jr., che sembra ormai essere stato un po' identificato come, a parte come il candidato numero 5, lo chiamava così nelle sue telefonate, Blagojevich, ma insomma è stato individuato come quello che avrebbe potuto magari pagare dei soldi o fare in modo attraverso finanziamenti, poi insomma i giri di parole sono molto più suonanti in questi casi. Ma lui però continua a dichiararsi innocente, anche alzando un po' la voce, sì, lo sì. fanno tutti, sì, sì, tutti. Gli accusati guarda, naturalmente. Finalmente però... Blagojevich adesso in America non lo conosce nessuno, nessuno l'ha mai visto, nessuno ci ha mai parlato e tanto più nessuno l'ha mai incontrato. Poi naturalmente televisione e giornali non fanno altro che rovesciare ore e ore di video, di fotografie, di registrazioni di Blagojevich insieme al sindaco di Chicago, insieme a Barack Obama, insieme a Jesse Jackson. Questo insomma era il governatore dello Stato, fino a ieri era molto popolare, nonché un populista di prima forza. È chiaro che tutti lo incontrassero e tutti lo conoscessero. Chi fosse poi al corrente delle sue cattive intenzioni è quello che il procuratore Patsy Gerald vuole sapere. Patsy Gerald è lo stesso che ha già incastrato altri noti governatori, è un procuratore federale che sembrava destinato a non essere confermato da Barack Obama. Secondo me un po' c'entra pure questo, nel senso che adesso Barack Obama che fa? Non conferma l'uomo che ha scoperto il marcio nel suo stato? E se non lo conferma che significa? Questa trasparenza è un problema insomma da gestire, sembra quasi. Comunque quella di Blagojevich mi sembra una parabola esemplare, fulminante, insomma, dalle stelle alle stalle in pochissimo tempo, come capita spesso purtroppo in politica. Ma secondo te, Stefano, secondo il tuo fiuto, in questa conferenza delle 5, delle 17, Obama potrebbe annunciare il siluramento di Blago, diciamola così? O è troppo guarda, presto forse? Obama, prima volevo dire un'ultima cosa ai nostri ascoltatori, che il predecessore di Blago, che si chiama George Ryan, ex governatore dell'Illinois, è in galera. È in galera con, mi sembra, 18 accuse di corruzione, insomma, di vario ordine. Quindi è proprio grado. Quella poltrona che porta male, non lo so che scopo. È la Chicago, la famosa Chicago politics, la politica in stile chicagoense, insomma, è roba per uomini duri, anche un pochino, vero, di quel genere che in televisione in questi tempi vediamo spesso celebrati. Vi dico alcune delle domande comunque scottanti, ce n'è un elenco molto interessante che ho trovato, queste saranno 99 su 100 rivolte a Barack Obama e qui vedremo se la trasparenza c'è o non c'è. Domanda numero 1, lei ha comunicato direttamente o indirettamente con Blagojevich riguardo alla questione di chi avrebbe preso il mio posto al Senato? Domanda numero 2, perché lei Barack Obama non ha corretto prima il suo consulente David Axelrod quando ha detto di aver parlato con Blagojevich negli ultimi giorni? Terza domanda, che cosa ha capito della storia di Blagojevich e dell'arresto? Come lo descriverebbe lei, gli possono chiedere. È stato interrogato da investigatori federali per qualche questione attorno a questa storia. Quando lei ha parlato per l'ultima volta con Blagojevich? Lei si pente di aver in passato, come del resto ha fatto, supportato Blagojevich? Ecco, non sarà una... Insomma, sarà un fuoco mattinata. Di fila pazzesco. Te sì, la senti di darci anche... facile per Barack Obama. Stefano, te la senti di darci anche le risposte di Obama? O è un azzardo eccessivo? Guarda, sarà imbarazzato o si è preparato una contromossa importante? I giornali stanno molto su una posizione di attesa, perché fino adesso poi Obama, da situazioni spinose in passato, io ricordo quella dei rapporti con il reverendo Jeremiah Wright, ha saputo sempre uscire con una notevole abilità sia di manovra anche con una classe da politico di razza. Questa è una situazione bruttissima, soprattutto per il momento in cui avviene. Insomma, questo è un uomo che sta entrando alla Casa Bianca, entrarci con un contorno di questo genere, entrarci con la copia di USA Today che ho sotto gli occhi, che fa una classifica delle medie di corruzione per Stato e sottolinea che l'Illinois in fondo non è neanche nei primi 15, mi sembra se 15esimo, 16esimo. Il problema è che ci sono 502 casi di corruzione accertata tra i politici dell'Illinois che ricoprono cariche ufficiali. Insomma, si capisce che la questione è una coda molto, molto fastidiosa a tirarsi dietro, no? per l'uomo che deve governare l'America e portarla e trascinarla fuori dalle secche. Nel frattempo lui comunque farà le sue brave nomine, c'è una lista di nomi molto interessanti che comunicherà oggi, che ufficializzerà oggi, prima di tutto quella di Tom Daschle, che già da qualche giorno in circolo e che si occuperà del famoso progetto di revisione, di ricostituzione della sanità americana. Ma progetto molto caro a Hillary, tra l'altro, che seppur segretario di Stato forse ci penserà molto a questo progetto. Sì, ma poi comunque un progetto da un lato necessario, dall'altro molto criticato, dall'altro spesso spiegato male, perché poi soprattutto dalle parti nostre si tende un po' a semplificare la questione dell'assistenza in America. In realtà è molto più complessa e Dashley è sia un uomo con la competenza e con i consulenti giusti forse per dargli un formato corretto, al di là appunto proprio del populismo più strillato. Stefano, ma questa rivoluzione, questa rivoluzione della sanità si concilia con il periodo di crisi che gli Stati Uniti stanno vivendo? Ma io ritengo di sì, perché in realtà ripeto, non è uno sforzo verso quello che intendiamo noi come copertura generalizzata sanitaria a carico dello Stato, è in realtà una ridistribuzione e ripensamento dei meccanismi. Già esistono dei meccanismi importanti in America come Medicare, Medicaid ad esempio per gli anziani o per i bambini, già esiste una geografia assistenziale che è molto complessa, naturalmente molto legata al privato, come del resto resterà legata al privato. L'intenzione di Obama e dei suoi non è certamente di statalizzare interamente la sanità americana, si tratta di ridisegnarla arrivando a tirare la coperta fin dove adesso non arriva, ovvero in quelle sacche soprattutto di middle class, soprattutto lì si guarda, in quelle classi middle class o di classe medio-piccola o di frange del proletariato dove questa copertura non arriva, insomma è un lavoro piuttosto sofisticato. Poi ci sono altre nomine importanti che oggi Obama annuncerà in ambito ambientale, altro tema caldissimo in queste ore, in questi giorni. Sì, certo, tra l'altro sono nomine importanti sia dal punto di vista delle coperture dei compiti che vengono affidati, ma sono importanti anche per i personaggi che stanno entrando in scena nell'amministrazione di Obama. Dunque c'è un Nobel, credo che se ne parli anche in Italia, insomma, perché è un nome importante, si chiama Stevie Chu, ha vinto il Nobel per la fisica nel 1997, va a occuparsi di energia, il Ministero dell'Energia, uno dei più delicati, uno dei compiti più importanti per questa amministrazione. Ci sono delle donne che entrano a far parte dell'amministrazione, altre donne, per la precisione Lisa Jackson, un altro politico di colore. Lisa Jackson tra l'altro è la prima afroamericana a entrare a far parte della lobby del governo dell'ambiente in America, infatti sarà capo del Dipartimento per la Protezione Ambientale. Ci sarà Nancy Sutley, che è un vice sindaco di Los Angeles, che entra a far parte anche lei della Commissione per l'Ambiente, e tra l'altro a sua volta è un personaggio interessante perché è una omosessuale dichiarata, e infatti i giornali oggi ne parlano, danno evidenza alla cosa, si sostiene che per la prima volta entra a far parte un gay dichiarato e anche a un attivista gay entra a far parte di un'amministrazione americana. Stefano, ti chiedo una risposta secca perché siamo veramente in chiusura del nostro primo collegamento, sì. Poi ci ritroveremo dopo la borsa. I nomi che ci hai elencato sono all'insegna del cambiamento tanto sbandierato in campagna elettorale da Obama? Sicuramente sì, anche perché mantengono poi questa capacità di grandissima qualità, insomma, sono sempre interessanti, sono nomi sempre stimolanti. Poi stiamo capendo, no, che il cambiamento è qualcosa che si annuncia, è qualcosa che va fatto, come magari vedremo più tardi, poi è qualcosa che va reso anche pragmatico, invece qualche dubbietto sta saltando fuori, ma insomma dal punto di vista della creazione della squadra Obama per ora non ha sbagliato praticamente un colpo, però vediamo che ci pensa Blago a fargli, come dire, a rendergli più difficile il cammino. Sperando poi che la storia di Blago non finisca come quella del nostro Villari, le differenze sono enormi, però insomma anche Villari sembrava destinato a lasciare il campo alla vigilanza Rai, invece ancora lì. Vedremo come andrà a finire. Noi, Stefano, ci ritroviamo tra pochi minuti per parlare di un altro tema caldissimo, rovente, quello della crisi dell'auto. E noi continuiamo a monitorare agenzie, televisioni, insomma stiamo aspettando le mosse di Obama, che ha un po' di grane da risolvere, deve anche annunciare qualche nuova nomina nella sua squadra di governo. Noi naturalmente siamo qui e tra pochi minuti ritroveremo in collegamento da New York Stefano Pistolini. Prima pagina. Prima però dobbiamo leggere i giornali cinesi e però devo dire che ci sono anche delle notizie sfiziose che arrivano dagli Stati Uniti o sull'America contemporanea di questi giorni, di questi mesi. Allora cominciamo dalla Cina, perché la notizia che tiene banco è sempre la stessa negli ultimi giorni, cioè questo intrigo internazionale tra Pechino e Parigi. C'è sempre sullo sfondo questo incontro scomodissimo che Sarkozy ha fatto sabato scorso in Polonia con il Dalai Lama. I cinesi se la sono presa tantissimo, forse troppo, viste poi quelle che poi sono le conseguenze pratiche di un incontro del genere, e a quanto pare da diversi giorni il sito internet dell'ambasciata di Francia a Pechino è praticamente inaccessibile. C'è stato qualche hacker cinese, qualcuno sospetta spinto dal governo di Pechino, che ha contaminato la pagina web dell'ambasciata francese in Cina. Naturalmente è arrivata subito una fredda, formale, compita nota del Ministero degli Esteri cinese che condanna quanto successo, dice la Cina è contro la pirateria ai danni dei siti internet e delle ambasciate straniere, penso di tutti, non solo quelle straniere, insomma di tante altre cose. Però oltre questo Pechino continua ad usare anche il bastone, diciamo così, nei confronti della Francia, perché continua a far sapere proprio oggi che attende ancora un gesto significativo di scuse da parte di Parigi, perché la Cina giudica non sufficiente quello che ha detto il ministro degli esteri francese Kouchner, che martedì insomma ha fatto capire che non voleva offendere la Cina Sarkozy nel momento in cui ha incontrato il Dalai Lama. Quindi diciamo la partita rimane aperta e qualcuno, come già abbiamo annunciato nei giorni scorsi, ha intrapreso un personale singolare boicottaggio dei prodotti francesi in Cina. Allora, c'è una notizia che riguarda gli Stati Uniti, ma viene dal Belgio, da Bruxelles, dove si trova, tra i tanti, anche il nostro premier Silvio Berlusconi, perché deve partecipare a questo delicato, importante Consiglio europeo. A quanto pare si è presentato, questo è molto divertente, ad un gruppo di giovani di Forza Italia con un orologio molto particolare. Perché? Perché questo orologio aveva un quadrante a stelle strisce, quindi con i colori inconfondibili della bandiera americana, e poi c'era un volto sopra questa bandiera. E di chi è questo volto? Naturalmente di Barack Obama. Però poi Berlusconi ha precisato, me l'hanno regalato questo orologio ma non lo porterò, insomma, quindi comunque l'ha fatto vedere, dice l'ho portato per fare due risate con i miei colleghi, avete visto, basta una battuta. Adesso già mi vedo gli sms scatenati a commentare questa notizia al 349-238-6666. Poi c'è Google, che ha dato la classifica delle parole più cliccate del 2008 in tutto il mondo, e inevitabilmente la campagna elettorale americana ha dominato la scena. Allora, nelle elezioni vere e proprie ha vinto, sappiamo, nettamente Obama su McCain, però in questa corsa su internet l'ha spuntata Sarah Palin, perché le parole Sarah Palin sono state le più cliccate, meglio di Obama in tutto il mondo. Obama si è classificato comunque con un dignitosissimo secondo posto. Al terzo posto il social network famosissimo, che non ha certo bisogno di presentazioni, Facebook. Comunque, solo restando al panorama americano, invece vince Obama, che ha battuto la compagnia telefonica AT&T e poi l'iPhone, l'ultima geniale invenzione di Steve Jobs. Giusto per la cronaca vi dico che invece in Italia le parole più cercate su Google sono state YouTube e poi scuola, quindi forse tutta la riforma e la protesta sulla riforma della Gelmini hanno davvero tenuto banco e l'hanno fatta da padrone nel nostro paese. Abbiamo ancora una notizia che ci proietta a questa data fatidica, attesissima, del 20 gennaio, il giorno della inaugurazione di Obama, presidente in carica a tutti gli effetti, del suo giuramento come presidente degli Stati Uniti, a quanto pare potrebbe volere vicino a sé un poeta per arricchire così di nuove note significative la sua cerimonia di inaugurazione, un gesto che hanno già fatto due suoi illustrissimi predecessori, entrambi democratici, prima John Kennedy, che all'epoca della sua, del suo giuramento volle accanto a sé Robert Frost, e poi Bill Clinton, che più recentemente ha chiamato sul palco la poetessa Maya Angelou. Naturalmente circolano i nomi dei possibili poeti che potrebbero stare al fianco di Obama: Philip Levin, Robert Pinsky e Kay Ryan. Casa Bianca. Il passaggio di consegne. I think this bill basically was you can see the influence of the UAW and you can see the influence of management of General Motors, Ford and Chrysler. This is the installment. La crisi dell'auto e i tentativi più o meno riusciti, più o meno soprattutto condivisi, per salvare le tre grandi case di Detroit che abbiamo appena risentito elencate in questo servizio della TV americana, Ford, Chrysler e General Motors, sono in qualche modo un simbolo, forse il simbolo di questa transizione dalla presidenza Bush a quella di Obama. Ritroviamo Stefano Pistolini in collegamento da New York. Siamo nel giorno successivo, nel giorno dopo, il day after, l'approvazione del salvataggio delle case automobilistiche. Qual è il clima? Insomma, Stefano, mi sembra di capire che nessuno poi esulti più di tanto. No, no, la situazione è defatigante, definiamola così. Il bailout è passato alla Camera, deve andare al Senato. I ben informati sostengono che al Senato ci potrebbe restare anche una settimanuccia, insomma, perché c'è ostilità che arriva da tutte le parti, sicuramente dall'interno del Partito Repubblicano, da cecchini di ogni ordine e grado. Vi ricordo che sono ancora poi provvedimenti, insomma, dell'amministrazione Bush, quindi soggetti a diversi, no, livelli e piani di lettura, insomma. Comunque si sostiene che nel weekend è possibile che le cose si sistemino e passi anche al Senato. Di sicuro l'entusiasmo su tutta questa storia è pari a zero, anche se poi le prime pagine dei giornali sono tutte storie umane di gente normale, di povera gente o semplicemente di lavoratori di tutto il bacino dell'automobile americano, soprattutto dell'area del Michigan, storie che dicono che comunque la vita cambierà, non sarà più come prima. C'è una dichiarazione di un influente repubblicano che si chiama Richard Shelby, un senatore che si accinge, credo, a votare contro, che ha detto: ma per quanto mi riguarda si tratta soltanto di rimandare quello che a tutti gli effetti è un funerale. C'è chi dice che bisogna farlo, ma bisogna anche esprimere tutta la riluttanza, no? L'atteggiamento controvoglia, insomma, di dare questi 25 miliardi di dollari alle tre sorelle di Detroit, nessuno ha voglia. C'è anche chi comincia a fare delle distinzioni, questo va detto, pare, poi c'è chi è più informato di me su queste questioni, ma pare che la situazione delle tre case sia tutt'altro che omologa, insomma, che soprattutto la Ford possa seguire una politica e possa intravedere un futuro diverso, magari leggermente più roseo, se non roseo, non so, forse arancione, di quella delle altre due. E che tant'è vero, c'è chi specifica che è una linea di credito quella che verrebbe concessa alla Ford, mentre si tratta di vere e proprie ipoteche, diciamo così, quelle che vengono messe in mano alla General Motors e alla Chrysler, anche perché la Stefano, Ford, scusami, la Ford... per ipoteche parli proprio dello Stato che entra a piedi uniti dentro queste due case? Guarda, non più tardi di due o tre giorni fa, c'erano tre giornali newyorkesi su tre che titolavano nazionalizzazione con il punto esclamativo dopo, insomma, per loro è una parola tra l'altro che fa correre i brividi lungo la schiena, insomma, pensare, no, che l'impero creato da un uomo che si chiamava Henry Ford diventi, sia pure solo in parte, sia pure forse, punto di domanda, per un certo margine di tempo qualcosa nelle mani dello Stato, insomma, per la visione americana di come dovrebbe andare il mondo del lavoro è un orrido. Insomma, Stefano, ieri abbiamo accennato ai ribaltamenti nella tomba di Lincoln pensando alla vicenda dell'Illinois, mi sa che anche Ford si sta ribaltando nella tomba, vedendo quello che succede alla sua azienda cento anni dopo la sua epopea, insomma. Senti Stefano, se sei d'accordo vorrei lasciare le automobili al loro destino, che comunque è un destino importante che ci riguarda, però vorrei sfruttare una metafora automobilistica per parlare del rapporto strettissimo, oserei dire di morbosa connivenza, tra quelle che sono le due famiglie più importanti nell'universo democratico, almeno nel dopoguerra, i Kennedy e i Clinton, perché ormai è dato per certo il passaggio di consegne al Senato tra Hillary Clinton, che diventerà segretario di Stato, e Caroline Kennedy. Quindi insomma, Kennedy e Clinton ormai da anni si scambiano il posto di guida nella politica americana. È giusto così o è un po' troppo esasperata questa cosa? Io non ti ho anticipato la risposta prima, nella prima parte del programma, quando parlavamo di vero cambiamento, insomma, perché questo, per esempio, è un cambiamento di Pulcinella, voglio dire. Un anticambiamento. Attenzione. Torniamo in una situazione Blagojevich, no? C'è un altro governatore che ha facoltà, come Blagojevich aveva facoltà e ha pensato bene di venderselo, il posto del Senato lasciato libero da Obama. Qui c'è un altro governatore, in questo caso lo Stato di New York, altro Stato dove insomma la politica di Stato non è che vada proprio affrontata con i guanti, che ha facoltà di sostituire Hillary Clinton, che passa al segretariato di Stato con una sua scelta. In questo caso, e guarda caso, è uscito un Kennedy. In questo caso il governatore James Patterson. Che succede? Che il governatore James Patterson, uno che sostituisce peraltro Spitzer, a sua volta spazzato via da uno scandalo, ce lo ricordiamo bene, è un altro che ha diversi scheletri nell'armadio, è un nero, tra l'altro è un non vedente, un personaggio di grande interesse anche dal punto di vista sociale, per come interpreta il suo ruolo, molto vicino a Hillary, così vicino a Obama, che dice, dopo che Caroline Kennedy mi ha aiutato in tutti i modi, mi ha aiutato portando un sacco di soldi alla mia campagna, mi ha aiutato entrando a far parte del comitato di individuazione del vice, c'è quel cognome Kennedy, c'è la sponsorizzazione di Ted Kennedy, che a suo tempo contò molto per la sua candidatura, insomma è ora di sdebitarsi. Per carità, Obama si guarda bene da dire a Patterson dai la sedia a Caroline, però insomma diciamo che ha i suoi modi per farglielo capire, e se una Kennedy chiede, se Obama spinge, mi sembra difficile dire di no, anche se ci sono dei concorrenti con dei cognomi altrettanto importanti, perché il principale concorrente di Caroline Kennedy avrebbe un altro cognome che a New York in particolare, ma un po' nel mondo, anche in Italia, suona assai familiare, che è Andrew Cuomo, come un casato ormai di uomini politici, a sua volta governatori dello Stato di New York, ben noti. Quindi ecco, qui il cambiamento insomma mi sembra francamente un po' rimasto un po' al palo, no? Sono sempre i soliti noti che si passano la palla, ma se i democratici a lungo incorrono in debolezze di questo genere, secondo me l'opinione pubblica americana non ci metterà molto a alzare la testa. Comunque insomma, mi sembra di capire che dentro al Senato non si arrivi per regolare concorso, diciamo così. Senti Stefano, abbiamo ancora un paio di minuti e parecchie munizioni da sparare, insomma non riusciremo a dire tutte, però insomma intanto vorrei parlare di una pièce teatrale che ha per protagonista Hillary Clinton, che tu hai visto dal vivo. Di che si tratta? Sì, per continuare a parlare di Hillary, c'è in scena a New York ancora fino a Natale uno spettacolo assai particolare, ma molto divertente, anche se un po' lunghetto, che dura un paio d'ore, scritto da una giovane attrice, una giovane autrice che era una pubblicitaria e che forse anche per questo ha avuto l'intuizione di farlo uscire al momento giusto. Si chiama, vi traduco il titolo, Hillary, una tragedia greca moderna con qualcosa che somiglia a un lieto fine. Questo è tutto il titolo. Ed è una cosa molto divertente perché c'è un coro tipo greco, insomma, tipo tragedia greca in scena. Ci sono due attori fantastici che interpretano Hillary e Bill. C'è Hillary che all'inizio della commedia va a trovare gli dèi, no? E decide di consegnarsi nelle mani di Atena e di lasciar perdere Afrodite. Commette un errore in questo modo clamoroso, perché la vendetta di Afrodite si chiama Bill Clinton, uno che invece di bellezza, di donne e di sesso ne sa qualcosa. Però è una storia molto divertente, un lavoro molto particolare sulla personalità di Hillary, ma anche sul femminile messo in connessione col contemporaneo della politica americana. Alla fine è un lavoro di grande intelligenza. Se qualcuno ha un Natale a New York in vista, si prenoti via internet i biglietti. Tra l'altro va in scena in un posto in Italia molto ben conosciuto, perché è Living Theater, quel famoso Living Theater protagonista del teatro alternativo anche in Italia in altri decenni. Adesso ha una sede invece istituzionale, si è molto istituzionalizzato esso stesso. E vuoi sapere come si chiama la strada dove c'è la sede del Living Theater? Dimmi. Si chiama Clinton Street. Non a caso, vabbè. Senti Stefano, siamo già sforando, però insomma io c'avevo una bella raffica di domande sullo showbiz, su Hollywood. 30 secondi per parlare di un argomento, scegli tu tra il film in coppia Gus Van Sant e Sean Penn, Lawrence Fishburne, vi do qualche che va si sai, veramente in 30 secondi. Sì, una raffica divertente. Allora, Lawrence Fishburne, entra, il famoso attore afroamericano, entra nel cast di CSI, quindi gli appassionati sono avvisati. Poi le casalinghe disperate hanno appena firmato, faranno sicuramente almeno fino alla nona stagione. Qui siamo alla quinta, in Italia siamo alla quarta, ci diventiamo vecchie. Il film di Sean Penn, di Gus Van Sant con Sean Penn, dedicato a un famoso attivista omosessuale, titolato Milk, ha appena vinto il premio della critica newyorkese. E Britney Spears, mi dispiace per i nostri ascoltatori che non l'amano moltissimo, ma mentre tu l'ami molto, lei è entrata, certo, è entrata in classifica direttamente al primo posto con il suo nuovo album, sulla copertina del quale sembra una ragazzina tanto tanto per bene. Su queste belle notizie finali ci lasciamo, Stefano, ci ritroviamo presto qui a Roma, quindi buon ritorno in Italia. About your city living, they told us that the streets were paved with gold, and some of us believed them and left our homes and came looking, but that was just another story they told. I got to get back and see my people someday and some way. My old Uncle Henry don't believe in them airplanes. Lord, you know he sure been good to me. Gave me piggyback rides down them dusty highways when I came just up to his knees. I got to get back and see my people someday and some way. I never thought I'd be lost and searching for one warm, friendly smile. I never thought I'd be running through them city streets like a newborn child. No, no, no. I grondano i messaggi, una giornata purtroppo cupa, anche drammatica qui per il maltempo a Roma con un morto in provincia. Insomma, i messaggi sono di vario tipo, qualcuno commenta la crisi dell'auto e per esempio Alessandro da Padova in maniera molto lapidaria ti dice: GM è morta già da qualche anno. In effetti, perché continuare l'agonia? Poi ci sono messaggi di vario tipo sull'orologio con la faccia di Obama che Berlusconi ha esibito oggi a Bruxelles. E poi c'è chi ci chiede, credo anche giustamente, Francesco ci chiede che fine ha fatto il vicepresidente degli Stati Uniti, famoso per le sue incredibili gaffe. Il riferimento naturalmente a Joe Biden. Vi diciamo che due giorni fa ha incontrato assieme a Obama Al Gore e hanno parlato ovviamente di ambiente. E poi un'ultima agenzia di pochissimi minuti fa ci fa sapere che Biden, come del resto Hillary Clinton e Barack Obama, probabilmente porteranno le nonne a Washington nel trasloco a transizione finita. E allora adesso, in questi ultimi minuti di Jefferson Ming, torniamo in connessione con la Cina, partendo però da Venezia, dove è in programma in questi giorni il Sea Trade Med, che è un po' il raduno del meglio del mondo delle crociere, un settore che tra l'altro sta godendo di ottima salute, insomma, tanto che per restare solo dentro i confini limitati, ma per noi naturalmente molto interessanti, del Mediterraneo, nei prossimi 4 anni i passeggeri aumenteranno addirittura del 30%. Sembra quasi un paradosso, persino forse uno smacco, pensando insomma al periodo di grossa crisi che tutti noi stiamo vivendo, ma evidentemente le crociere mantengono un fascino intramontabile, quindi buona fortuna alle crociere. Da Venezia molti secoli fa partì alla scoperta dell'impero celeste Marco Polo, e oggi dall'Italia c'è un altro nome che sta cercando la conquista della Cina, è Costa Crociere, che oggi è rappresentata in collegamento qui con noi con Jefferson Ming dal direttore generale Gianni Onorato. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora Onorato, io non vorrei fare troppa pubblicità al suo marchio, però insomma io ho subito pensato, quando abbiamo organizzato questo incontro, a quella bellissima pubblicità della coppia che, no, marito e moglie, reduci da una crociera, che a casa piangono amaramente ripensando ai lussi e ai vizi, insomma, a cui si sono concessi in crociera. Però insomma siamo qui per parlare soprattutto del rapporto di Costa Crociere con la Cina. Voi siete sul mercato cinese dal 2005, giusto? Noi abbiamo cominciato praticamente a prendere un ufficio in Cina proprio nel 2005, e cominciando fisicamente le crociere, spostando una nave in quell'area dal giugno 2006. Quindi sono ormai 3 le stagioni che ci vedono operare lì in Cina, e le cose procedono bene, nel senso che noi l'anno prossimo raddoppieremo la nostra presenza, affiancando all'attuale Costa Allegra anche la Costa Classica, una nave poi per di più grande di quella che abbiamo avuto sino ad oggi, e concentrandoci su 2 regioni, anzi 3, molto importanti: una è quella di Tianjin, che è il porto in pratica della capitale di Pechino, l'altra area importante per noi è Shanghai, e poi Hong Kong durante l'inverno. Tianjin, dove tra l'altro c'è un'antica presenza italiana, c'è un vecchio quartiere anni 20, anni 30 se non sbaglio, di matrice italiana, quindi c'è già un pizzico d'Italia da quelle parti. Adesso Onorato, le vorrei chiedere poi un bilancio di questi 3 anni e magari una proiezione futura. Mi sembra di capire dalle sue parole che ci conferma l'espansione della clientela non solo qui nel Mediterraneo ma anche nel lontano Oriente. Però prima di tutto vorrei chiedere come le è venuto in mente di tuffarvi nell'avventura cinese, sapendo che i cinesi hanno un rapporto pessimo storicamente con il mare. Da dove è nata questa vostra avventura? L'avventura è nata da quando sentivamo dire: ma perché per andare in Giappone devo prendere una nave quando in aereo ci impiego solo 1 ora? Ecco, quindi questa è stata un po' una sfida, ma soprattutto quando abbiamo cominciato a capire che visitando Shanghai o visitando Pechino si vedeva che era come vivere in una grande città europea, no? Quindi perché no? Perché non cominciare lì con le crociere, cercando di entrare nel settore, in un settore come quello del turismo, dove anche lì ci si vuole comportare un po' come gli occidentali, e soprattutto perché dai nostri studi abbiamo capito che l'Italia e l'Europa diventava sempre più affascinante. Quindi noi, il nostro inizio è stato: venite a visitare un vero palazzo italiano, immergetevi nella cultura italiana senza dover viaggiare ore e ore in aereo. E quindi questa è stata la nostra scommessa, che abbiamo vinto prima superando difficoltà burocratiche. Siamo stati la prima azienda ad avere un'autorizzazione, un permesso per poter imbarcare cinesi, portarli all'estero e riportarli in patria, quindi questo è stato già un punto importantissimo. Onorato, in 3 anni quanti cinesi avete portato in crociera? Ma fino ad oggi abbiamo già superato i 50.000 e il nostro obiettivo con questo raddoppio importante è di avvicinarci presto alla quota di 100.000 già dal prossimo anno. Ecco, onorato, io mi sono un po' sfogliato i vostri cataloghi prima di questa nostra intervista e ho capito, insomma, che state puntando inevitabilmente, anche giusto, sul Made in Italy più classico, mi permetta anche di dire in alcuni casi persino kitsch, insomma, c'è la musica di Sanremo, quella napoletana, c'è il mandolino, c'è la pizza, poi naturalmente c'è anche l'alta moda. Ho letto che c'è persino un sarto italiano a bordo che fa vestiti su misura per i nuovi ricchi cinesi, è così? Ma non solo per i ricchi, cioè c'è talmente fascino in tutto ciò che è italiano e che molto spesso noi italiani non riconosciamo più come tale, perché forse siamo abituati a vederlo nella vita di tutti i giorni, sono piccoli dettagli che invece trovano un forte risalto, anche quella del sarto, così come tante altre cose, come alcuni giochi e come la musica che molto spesso va dal volare di Modugno fino alle canzoni di Ramazzotti o della Pausini e sono un patrimonio che ormai fa parte della vita di tutti i giorni dei cinesi. Molto spesso noi magari queste cose qui le teniamo un po' da parte perché le consideriamo un po' eccessivamente datate, quando forse in realtà per loro non lo sono. Ma com'è il cliente cinese? Facile, difficile, esigente, incomprensibile? Cosa fa il cliente cinese a bordo, mi viene in mente quando abbiamo cominciato tantissimi anni fa nei Caraibi. Costa Crociere negli anni 70 nei Caraibi era la compagnia numero uno per il mercato nordamericano, che è il mercato principale al mondo con più di 12 milioni di crocieristi, e quando, pensi che nel 70 Costa Crociere era l'azienda numero uno, e mi viene in mente che le cose che vogliono oggi i cinesi sono molto simili a quelle che volevano gli americani tantissimi anni fa. Volevano la musica, quindi dalla classica tarantella a volare, vogliono ballare, vogliono divertirsi, quindi vogliono la musica italiana per poterlo fare, vogliono il cibo, vogliono la moda, vogliono acquistare prodotti italiani, quindi io trovo delle similitudini incredibili. Amano il vino italiano, il vino rosso, perché il bianco non è molto apprezzato, soprattutto perché lo bevono a cena, durante il giorno preferiscono bere bevande calde, non solo tè ma anche semplice acqua calda, soprattutto le signore, sembra che sia un portento per mantenere la pelle liscia e giovane, quindi tante similitudini, soprattutto quando li vedo ballare, li vedo partecipare ai giochi e alle attività sulla nave. Quindi in sostanza un americano, un cinese dell'Italia sognano e chiedono le stesse cose? Assolutamente sì, è incredibile, soprattutto a differenza dopo con tanti anni di differenza. Ma guardi che se lei va nel nostro sito, nei nostri siti americano in lingua americana o cinese in mandarino, lei trova le stesse musiche simili, non proprio le stesse, trova anche la stessa maniera, lo stesso modello di comunicazione. È una cosa incredibile, due paesi completamente diversi, uno agli antipodi dell'altro, ma che hanno in comune poi tante ambizioni e tante voglie, come quella di fare una crociera targata Italia. Ecco. Grazie a Gianni Onorato, direttore generale di Costa Crociere, in diretta a Jefferson Mingo. E noi restiamo intanto con il naso all'insù per guardare i canali americani Fox e CNN, c'è già la telecamera fissa sulla conferenza stampa quasi quotidiana che Obama sta per cominciare, purtroppo non possiamo sforare e seguirla dopo le 17, parlerà della crisi del governatore dell'Illinois e farà ufficialmente, darà l'annuncio di nuove nomine in campo soprattutto ambientale e della sanità. Noi ci fermiamo qui, ringrazio Gloria Guerrero in redazione, Valerio Rocchetti in regia a Roma e Pietro Lacorte in regia a Milano, Jefferson Ming at radio24.it, questa sera alle 21 la replica, domani invece alle 16 una nuova puntata di Jefferson Ming, sempre su Radio 24. Show. machine.